Prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'attenzione. Soltanto una premessa, Bruno Melande, dicevo, al di fuori del titolo, si ha l'abitudine nelle aziende di mettere titoli, ma di fatto MC è un'azienda che lavora nella fornitura di tecnologie nell'IT per le grosse aziende, per gli internet service provider, per il consumer, eccetera. Questo a livello di componenti hardware, software e di servizi. Io ho il piacere di essere in EMC da una decina d'anni e in questo contesto mi occupo di cappello, quindi applied technology, come applicare la tecnologia di EMC a livello EMEA, quindi Europa, Medio Oriente e Africa. Mi è stato chiesto di venire oggi in Italia, sono italiano, mi piace, ho il piacere appunto di lavorare su questo tema del cloud computing e in questo momento appunto come EMC. Di dove partiamo? Beh, direi dall'inizio e direi a questo punto la cosa importante è partire con un modello. Si è visto un pochino di analisi, quindi qual è il mercato del cloud computing, che cosa vuol dire cloud computing. Il mio takeaway, la mia esperienza mi dice: chiedi a 10 persone cos'è cloud computing, ti danno 12 risposte diverse. È normale, è giusto, perché cloud computing significa cose diverse a ognuno di noi. Quindi in questa slide un pochino c'è un modello del ma chi siamo ognuno di noi e in funzione del layer che cosa significa cloud computing per noi. Ovviamente l'obiettivo qui è farvi vedere la roadmap di EMC, quindi l'offering, le idee, il futuro, il presente a livello del cloud computing. Tre cose importanti: ci sono i data center, quindi l'IT classica, quindi tutto il business che c'è dietro, l'enterprise, il commercial, tutta la segmentazione di mercato dal punto di vista delle tecnologie, vista da un provider di tecnologie. Cosa importante, i consumer. Non dimentichiamoci che nel mercato ci sono 2 miliardi di persone che in qualche modo sono target comunque dei servizi del cloud. Ci sono i service provider e o i fornitori in generale di servizi in generale, quindi sono le telecomunicazioni e o i fornitori di servizi, i vari outsourcer nella maniera classica di interpretare l'outsourcing IT, e ci sono i fornitori di tecnologie, quindi l'EMC che in questo momento comincia ad affiancarsi in qualche modo, magari come incubatore, ai service provider per mettere in moto il volano comunque del cloud. Per semplificare a questo punto il che cosa viene fornito, quali sono i layer tecnologici del cloud, eccetera, ho preso un po' di tecnologie di prima, tutte quelle righe che avevo messo di servizi, eccetera, e le ho in qualche modo chiuse nel modello, se vogliamo dire classico, dei nomi del cloud computing. E quindi a questo punto vediamo un layer di infrastrutture. Non dimentichiamoci che l'abilitatore ai servizi sono comunque le infrastrutture, e vedremo come ci sono. Quello che ho fatto è scendere con un paio di slide per ognuna una serie di value proposition nell'area data center e consumer sulle infrastrutture. Ci sono ovviamente le infrastructure as a service, quindi qualcuno a un certo punto dice: bene, adesso che ho messo in casa infrastruttura, l'ho messa per fornire servizi di infrastruttura ad altri. Questo vedremo come è uno dei emerging market del cloud, mentre in particolare quello del data center virtualization si è visto essere quello che per oggi è, mi pareva fosse il 67% dall'analisi di Gatti del mercato in questo momento come percezione del cloud. Si diceva infrastructure as a service, ma ovviamente poi anche platform as a service o application as a service. Quindi la cosa importante è vedere a questo punto su tre ambienti diversi i tre layer in cui viene in qualche modo interpretato il cloud. Proviamo un attimino a partire dal basso, a questo punto vedere due slide per ognuno dei vari settori, che cos'è cloud. Avete già visto che qui ci sono almeno 10 modi di interpretare il cloud. Cominciamo di qua. Dove siamo? Siamo qui, cioè in mezzo a un percorso delle tecnologie, in mezzo a un percorso dell'IT delle aziende, che tendenzialmente vede il cloud come iniziative di virtualizzazione del data center per dare efficienza. Lo vedremo poi probabilmente in un intervento futuro, specialmente di VMware, come questo è una delle dei motori in questo momento, IT oriented, business oriented, della virtualizzazione e quindi del cloud. Vedremo perché del cloud. E la leva è l'efficienza. Voglio avere più flessibilità, voglio avere la flessibilità di riutilizzare più velocemente le infrastrutture in funzione di cambiamenti applicativi, eccetera, che mi servono a livello del business. Quindi efficienza dell'IT per essere più veloci. Sicuramente questo è comunque una zona in cui c'è già attività fatta, specialmente la grossa azienda ovviamente si è mossa un po' in anticipo, la media azienda sta comunque percorrendo il discorso della virtualizzazione con diverse priorità. La cosa importante a questo punto però è attenzione, la virtualizzazione, il consolidamento eccetera deve avere un altro obiettivo, che è quello del controllo. Una volta che io comincio a cercare di fare efficienza, ma faccio efficienza senza controllo, forse ho un problema, perché perdo il controllo dell'ambiente. Quindi una cosa che qui viene fuori è, questo è uno dei secondo obiettivo della virtualizzazione del cloud, e ancora una volta vedete la riga è un pochino più proiettata verso il futuro o un po' meno verso il passato. Che cosa vuol dire? La maturità del settore IT su questo discorso del controllo è leggermente più indietro rispetto al faccio virtualizzazione per fare efficienza. Però è il secondo tema della virtualizzazione del cloud che qui a questo punto viene preso e spinto in avanti. Terzo livello, spinta al cambiamento, e qui entra il discorso spinta al cloud, la choice, voglio avere la possibilità di decidere. Come diceva Gatti, ormai il business conosce di tecnologia non tanto dal punto di vista di tecnicismi, ma sa che il mercato può offrire qualcosa e magari lo vuole andare a prendere in outsourcing, vuole andare a prendere da qualche parte nella rete il sistema, ad esempio, delle note spese, si diceva. EMC come azienda internazionale ha un sistema di note spese gestito in outsourcing da un'azienda da Taiwan. Purtroppo quando ho un problema devo interagire con un call center di Taiwan, però ormai è la realtà. Le aziende vogliono avere la scelta di andare a prendere quello che gli sembra giusto prendere dov'è. Questo porta a uno shift in qualche modo del concetto di infrastruttura dell'enterprise, dell'infrastruttura IT, ovviamente stiamo parlando di IT se non sbaglio, in modo che questa infrastruttura possa evolvere da un concetto tipicamente interno, magari di cloud interna. Perché cloud? Perché la virtualizzazione, perché gli approcci al cloud vogliono dire sono comunque pronto a riutilizzare, a velocemente lavorare per livelli di servizio, a dare servizi a un mio cliente. Questo è comunque il concetto del cloud. Quindi tante volte il cloud interno non è altro che il nuovo modo o il vecchio modo ritoccato dei processi di fare IT. La cosa importante, l'idea di base è prepariamoci a un internal cloud per poter eventualmente, laddove mi serve, andare a sfruttare servizi emergenti. In questo momento la fotografia di mercato è ci sono alcuni pochi provider esterni quasi unici che specialmente a livello di infrastruttura cominciano a dare servizio. Quali sono, quali potranno essere? Tendenzialmente al 70-80% quelli che ci danno la connettività con la nuvola, quindi i telco provider, gli ISP in generale, quelli che comunque sono abituati a fare servizi di outsourcing, si stanno comunque buttando su un'idea di cloud esterna proprietaria e o di cloud esterna federata. Vedremo cosa vuol dire federata per AMC, perché AMC crede nella federata. Ovviamente federata è la parola magica che dietro ha choice. Se è federata tanti fanno la stessa cosa, io posso scegliere uno fra tanti. Quindi il modello della utility, vado a prendere l'energia, vado a prendere l'IT infrastructure dove mi conviene, dove ho la garanzia di un certo tipo di servizio, è il punto di attacco. Che cosa fa MC in questo contesto? Ovviamente dovevo condensare il messaggio MC sulle infrastrutture in una slide, perché ne abbiamo altre 86 da vedere nelle prossime 3 ore. Ho portato semplicemente un'idea di qualcuno che comunque sta usando l'infrastruttura, come vi dicevo, le piattaforme hardware, piattaforme software e servizi di MC, per portare avanti il processo di ottimizzazione dell'IT. Vedremo ancora una volta, vi dicevo, faccio il salto, la virtualizzazione cosa vuol dire per il data center, ma nella virtualizzazione devo comunque portare avanti problematiche di information protection, problematiche di security. Quindi un fornitore di tecnologie come MC dà una mano a indirizzare questa serie di, ovviamente, di task. Cosa importante si diceva, vi ricordate, il control, andare a fare ambienti virtualizzati, bello, bellissimo, non dimentichiamoci che la governance è comunque un must per l'IT e per l'azienda in generale, quindi andando a inserire della virtualizzazione nel data center vuole anche dire che comunque devo aggiornare gli strumenti di gestione e controllo per far sì che questo stack in cui ho il mondo fisico, il mondo logico e le applicazioni possono essere comunque inseguite dall'IT per ad esempio fare discovery, correlazione, causa-effetto di guasti, problematiche, deve poter gestire il change in un ambiente virtuale. La cosa importante quindi, a questo punto la slide è andata in automatico, è indirizzare il tema della gestione e controllo, questo è uno dei core business tecnologici dell'AMC, ok? L'altra parte, ancora una volta, stiamo parlando delle infrastrutture del data center, importante per il core, è la sicurezza. Sicurezza perché sia quando parliamo di IT classica e quando poi parliamo di cloud diventa ancora più sentito, chissà cosa metto dove, le tecnologie legate alla sicurezza diventano importanti temi quali l'autenticazione, devo sapere chi tocca cosa. Ma devo cominciare a portare avanti pesantemente tutto ciò che riguarda le tematiche di compliance, quindi l'auditing, cosa è successo dove nell'ambito della sicurezza, per poter dimostrare che sono compliant, per poter dimostrare cosa è successo, per poter fare un'analisi e prendere contromisure in generale. E qui RSA, che è la divisione di sicurezza della MC, viene d'aiuto nel discorso del cloud. Mi sposto in questo momento sulla parte di infrastrutture, vedete, un po' più verso gli ISP e o comunque quindi a questo punto del cloud, per introdurre il concetto di piattaforma come Atmos. Atmos che cos'è? È semplicemente una piattaforma di storage, quindi oh che bello, sono dischi, sempre parlare di dischi. La cosa importante è infrastrutture di storage, perché non ricordiamoci che l'informazione viene elaborata in giro sulla rete, ma poi deve essere anche mantenuta sicura in giro per la rete. Atmos è una infrastruttura scalabile rivolta appunto a poter essere geograficamente dispersa, quindi è il grande fratello dello storage, lo storage sparso in giro per il mondo. Con la gestione delle informazioni che vengono a questo punto date in pasto a questo genere di tecnologie orientata alle policy, quindi io posso dire guarda che questo oggetto, questo genere di informazioni devono sottostare a una policy, distribuiscile sul territorio in modo che siano vicine all'utente finale, ad esempio, e che ovviamente abbiano efficienza di scala, vuol dire costo basso, quindi si appoggino a hardware di commodity, e dall'altra parte facile da gestire, vuol dire poca gente per terabyte a dover gestire questo genere di cose. Qual è il target di questo genere di tecnologie? Tendenzialmente questa tecnologia è infrastruttura per l'enterprise che ha bisogno di grosse moli di contenitori per i dati. Uno per tutti, pensate a uno YouTube. YouTube è comunque un enterprise, dietro ha bisogno di contenere grossissime moli di oggetti di rich media. Questo è uno dei target, ma attenzione, ad esempio nel settore dell'industria, l'automotive ha grosse moli di informazioni per i propri prodotti, per tutta la catena di produzione e di engineering dei suoi manufatti. Quindi questo è comunque il target, stiamo parlando di contenitori comunque da petabyte dispersi sul territorio, e ovviamente il target sono gli ISP, perché a questo punto i vari servizi sulla rete, per essere servizi, hanno bisogno di infrastruttura per il contenimento delle informazioni. Per dare un riferimento, questo è un riferimento di mercato, prima si è parlato di eBay. eBay usa questo genere di infrastrutture all'interno dei suoi IT perché è un contenitore disperso sul territorio, facile da gestire per i rich media, e quindi eBay ovviamente è uno dei target. Sopra questo, vi ricordate la roadmap qua sopra, parliamo di infrastructure as a service. Bene, una volta che ho fatto dell'infrastruttura, questa tendenzialmente serve all'IT interno e serve a un qualcuno che ci fa business, da infrastruttura all'esterno as a service. Nel mercato il pioniere di queste cose, dal mio modo di vedere le cose, è stata Amazon Web Services, con un modello infrastructure as a service, fatemi dire, proprietario. L'idea di base del consorzio, se vogliamo, IMC e altri fornitori in questo caso, è inseguire l'idea del federato, federato uguale choice. Okay. E quindi sono usciti in questo momento sul mercato questo genere di servizi, che sono servizi in cui a oggi servizio di storage as a service, posso allocare, preallocare, usare storage sulla rete, domani perché no, come Amazon Web Services posso usare potenza di calcolo sulla rete. Okay. Anche qui un esempio per farvi capire di cosa stiamo parlando, di chi è entrato nel consorzio che sta spingendo queste cose. Una per tutti la TNT, è un provider ovviamente di telefonia e non solo, quindi un ISP, è un service provider eccetera, con una presenza capillare sul territorio a livello worldwide. Per questo si sta dotando di infrastrutture di tipo cloud che gli permettono di dare cloud services di infrastruttura al proprio mercato. Questo è, per i più tecnologici o più tecnici, un modello di cosa vuol dire dare servizio e quindi l'utenza del cloud interno che va a usare questi servizi, è un'utenza che sta qua sopra, okay, che userà servizi di storage as a service o di computer as a service, che le infrastrutture del provider con questa architettura erogano sul mercato. Partiamo in velocità, perché il tempo è tiranno ed eventualmente poi ci si potrà approfondire il tema o durante la round table o durante i momenti di pausa eccetera, io comunque sarò qui tutta quanta la giornata, sul layer un pochino più in alto, quindi sull'as a service delle solution, del software eccetera. In questo caso AMC direttamente quindi ha deciso di entrare su un mercato che è quello con un brand che è Deco, che sarebbe Digital Eco, che è quello tipicamente del information protection, dell'impresa, piccola impresa, grande impresa, personal protection. Uno per tutti, io ovviamente essendo AMC sono uno dei primi, ma non so quanti di voi conoscono Mozi è un servizio as a service per fare backup sul cloud, rivolto al consumer, alla piccola impresa, alla grande impresa, a tutti, ovviamente modulare in termini di servizi. Quindi qua sopra AMC ha deciso di uscire in primis con servizi di questo genere, sempre se volete infrastrutturali, quindi l'information protection e o di personal information management. Che cosa vuol dire? Uscire col concetto la vita attuale e futura porterà sempre più le persone e le imprese a lavorare con dei personal device, quindi le persone avranno personal device o i PC o qualsiasi cosa. Bene, l'informazione deve essere raggiungibile e organizzabile. La mia organizzazione, la mia informazione, quella della mia azienda, quella dei miei partner eccetera, in qualche modo. Questo è il settore dei portali as a service, di quello che io chiamo personal information management. Si può approfondire, ci vorrebbe magari un pochino più di tempo, comunque l'idea di base è ancora una volta Deco piattaforma, ovviamente con una serie di funzioni, quindi di applicazioni disponibili, e con una serie di interfacce per poterla connettere ad altre applicazioni, ad altre realtà. Questo genere di servizi tendenzialmente chi vanno a toccare? L'utenza finale che prende il servizio da un, in questo caso da una AMC particolare, ma normalmente questo genere di servizi vengono molto spesso sul mercato usati in white label, vuol dire non ci metto il logo AMC, non lo aggancio ai servizi, al billing di AMC, ma lo do in as a service a un provider finale, ad esempio a una grossa telco, ce n'è qualcuna in Italia, anche se ne abbiamo poche, che ci sta lavorando, che a questo punto personalizza e lo dà come mattone dei propri servizi alla piccola impresa, all'utenza finale, eccetera. Quindi ancora una volta i software as a service sono rivolti all'utenza finale, ma anche indirettamente attraverso gli ISP all'utenza finale, perché li pacchettizza e li rende disponibili personalizzati con altri componenti della sua specifica offerta. Ultimo, non ultimo, poi in questa presentazione sarà il penultimo, sulla parte del platform as a service e application as a service, non dimentichiamo, io lo so, magari qualcuno di voi un po' meno, AMC nel suo portfolio si occupa di content management, quindi una serie di componenti orientati al content management dell'enterprise che sono stati presi, ormai l'animazione ha già messo in moto le cose, ma presi e acquisiti nel tempo. Bene, l'idea di base è questo genere di componenti che possono essere utilizzati come componenti per lo sviluppo applicativo o il co-sviluppo applicativo in Web 2.0 eccetera, vanno presi, razionalizzati, presentati in un frame in modo che possano essere usati per sviluppare applicazioni in cui tutte le varie funzioni tipicamente rivolte al content e al workflow siano comunque prese e utilizzate. Questa appunto è la piattaforma di sviluppo di content management di AMC. Questo da un certo punto di vista è una piattaforma di sviluppo con componenti per quello che sono architetture SOA, di cui siamo un attimino parlato prima con Alfredo. Nell'ottica di, e ancora una volta, avere anche qui una graduale shift di quello che è il paradigma del content e dell'information management da quello che era inizialmente il content management dell'azienda, sulle risorse interne dell'azienda, sulle informazioni, sugli asset interni dell'azienda, via via ad andare a prendere una serie di, ad allargare il tiro su quello che è l'azienda allargata e quindi il cloud. Questo è un pochino il posizionamento di quello che è Documentum oggi, quindi l'information management di AMC nell'ambiente del cloud. Per finire ritorno all'inizio, anche se questo è una cosa che tendenzialmente è inseguita da AMC più con gli internet service provider, ma è importante per far pensare che cosa può voler dire il cloud anche. Si diceva il cloud c'è a livello di solution di software as a service, ma anche a livello di infrastrutture, andare a toccare la loan business, lo small business, quindi la piccolissima, la microimpresa, la piccola impresa, eccetera, magari attraverso servizi di ancora una volta information management, di storage sull'impresa. Questo ad esempio è uno dei modelli su cui si sta lavorando sempre con alcuni provider, in cui nell'ultimo miglio, quindi nell'azienda, esistono contenitori per le informazioni, quindi i repository per le informazioni, che sono un pezzo sono l'ultimo chilometro della rete. Quindi la rete è vista un pochino come qualcosa che mi garantisce l'accessibilità e la protezione dell'informazione, che comunque è a casa mia. Io con questo ho concluso la velocissima carrellata, spero di non aver creato confusione dando un modello e andando velocemente su questo, faccio comunque presente, come vi dicevo, queste sono le mie coordinate, sarò comunque presente qui e sono comunque raggiungibili in AMC da chiunque ne abbia bisogno. Grazie, buona giornata.